Beh, probabilmente il più grande traslatore di dub dei nostri giorni, Moritz von Oswald, Maurizio in questo caso. Siamo andati proprio alle origini di tutto il discorso legato a quello stranissimo miscuglio tra techno e dub. Poi in realtà la faccenda non è poi così strana, se pensiamo al fatto che comunque sono tutte e due musiche che nascono fondamentalmente da matrici nere degli anni 70, da una parte il dub, appunto citato nella prima parte di 451 frammenti sonori, chiaramente dedicato al dub, alle traslazioni dub, alla dubbologia varia che ci può essere annessa e connessa a questo tipo di trattamento sonoro, questa attitudine assolutamente punk, ma non solo, insomma, visto che si nutre anche di meccanismi tra virgolette avanguardisti, prima ad esempio con David Cunningham, ma potremmo anche citare David Toop e altri personaggi che del dub, insomma, fanno una materia di studio analitica, quindi dentro le sperimentazioni. Con Maurizio si va da una parte appunto con la materia dub e dall'altra, come dicevo prima, gli anni 70 non soltanto dub ma anche quelli funky, la techno che nasce appunto come elettrificazione, per tanti versi una forma elettronica di funk, elettrofunk, come citavano Cybotron, e poi diventati in Model 500, John Atkins, che tra l'altro padre chiaramente della techno di Detroit, che tra l'altro lavorerà proprio con von Oswald, con Maurizio, basando anche la sua spostando per molti versi la sua terra natia e la sua terra natale dall'America appunto da Detroit a Berlino, terra che insomma sarà appunto non soltanto madre, ma di fatto insomma difenderà le produzioni più ardite di Atkins anche in anni insomma difficili, da un po' di anni insomma che non è in magica forma e Magic Juan insomma della techno di Detroit per vari problemi insomma personali, ma appunto Berlino insomma Detroit che diventa da madre matrigna, invece diventerà proprio una madre anche piuttosto protettiva, e lì incontrerà Moritz von Oswald, ma non solo, avrà modo insomma di lavorare con la Tresor, con Basic Channel, con Chain Reaction, tutto quel l'humus dubbistico di nuova impatto per quanto riguarda anche la techno, questa dialettica che sembrava veramente molto molto difficile tra ritmiche e dritte come quelle della techno e quelle invece storte del dub, invece stranamente prendono delle forme quasi metafisiche. Qualcuno parlava anche di Aaron in House, legando appunto alle produzioni di Basic Channel, di Chain Reaction, legate appunto a von Oswald. Possiamo veramente inventarci qualsiasi termine, di fatto partendo da una traslazione della dance music tra techno e dub degli anni 90, von Oswald arriva fino ai nostri giorni sperimentando una sorta di improvvisazione assai interessante, sempre di matrice dubbistica, con le memorie della techno, con le sperimentazioni poi dei vari Kritz & Katz della fine dei 90, primi 2000, con von Oswald Trio, tra le produzioni sicuramente più belle di questi ultimi anni, eccezionale, tra l'altro anche facendo rivivere musicalmente insomma un Vadis Dravidei che da un po' di anni era piuttosto annebbiato, e appunto dentro il suo trio E quindi Maurizio, come dire, a portare avanti un dub che non ha mai finito di essere musica decisamente creativa, ma qua si veramente si ricrea, si riformula, si ristabilisce, anche con quel portato che è fondamentale per tutto il dubstep, se pensiamo insomma che buona parte insomma della Basic Channel ha informato buona parte a questo punto del dubstep inglese, non solo. Abbiamo insomma a che fare con un fil rouge, come insomma tante volte tiriamo fuori qua, 451, piuttosto importante, che collega appunto sperimentazioni di vario tipo, anche piuttosto eclettiche, tra due decenni, fondamentalmente tra gli anni 90 fino ad arrivare appunto ai primissimi anni 10, quelli che appunto stiamo attraversando. E se Maurizio ha inventato questa forma piuttosto originale, tecno-dubbistica, Skylab, progetto misconosciuto, anch'esso proveniente dagli anni 90, si inventava forme di trip hop che andavano a incrociare la materia dubbistica, anche qua una techno che va a essere dubbata, sembra quasi la techno della camera a fianco, una techno con tanti riverberi che appunto va a toccare anche punti interessanti di sperimentazione. Skylab, che altro non era che un progetto di AWB, poi purtroppo un po' perso, ma le produzioni degli anni 90 hanno fatto veramente pregio a questo autore inglese, poi appunto un po' perso nei suoi meandri, forse mentali o forse di stasi creativa. Ma andiamo a prendere appunto con una delle cose più interessanti fatte uscire negli anni d'oro del personaggio in questione, AWB, Skylab. Thank you. Uno dei massimi livelli di traslazione dub è sicuramente quello di Rhythm and Sound. Se nella fine della prima parte di 451, dedicata evidentemente alla materia dubbistica, abbiamo trovato una sorta di dubbizzazione estremizzata verso una sorta comunque di industrial che cambia pelle con Meat Beat Manifesto, non è un gioco di, è soltanto un gioco di parole. E invece con Rhythm and Sound, visto poi insomma che avevamo fatto anche nella prima parte un omaggio all'Onum Sound, come non fare un omaggio alla Basic Channel tutta, che con Rhythm and Sound appunto raggiunge il massimo livello di esperimento dubbistico, una dilatazione estrema che raggiunge appunto livelli che non appartengono più assolutamente a un genere, che poi non è neanche un genere, è un'attitudine, un modo di trattare la materia sonora attraverso un mixer e attraverso tutto l'ambaradan e tutto l'armamentario dell'effettismo mixeristico. Se negli anni 70 era veramente poverissimo, poi con le possibilità di digitalizzazione anche estremizzata, ad esempio in proprio Rhythm and Sound, si arriva a una vera e propria aspettografia, dicevo prima, della battuta dub, che è una battuta poi decisamente particolare, perché appunto dilatandosi diventa anche una sorta di battuta che assume quasi delle sembianze armoniche, quasi dando alcune volte degli aspetti ambientali. Non è un caso che prima Orb negli anni 90 prendesse proprio il dub per inventare quell'ambient house e quella dilatazione massima del ritmo, che quindi appunto va talmente a liquefarsi tale da diventare flusso. Quindi in questo senso veramente il dub anticipa quello che poi sarà appunto uno dei passaggi cruciali delle elettroniche, che si liberano per molti versi della battuta. Poi anche questo discorso qua tra ambient e quindi assenza di battuta e battuta, poi con personaggi come Rhythm and Sound e Maurizio diventano anche paradossali, perché come dicevo prima la battuta diventa una sorta di ambientazione veramente globale, completa anche, e quindi dà queste possibilità decisamente inedite alle musicalità dance, paradance, ambient o post tali. Veramente si va al limite del discorso insomma di elettronica nel senso di quel crossover partito negli anni 80, che appunto da una parte ha fatto nascere la techno come evoluzione del funk elettronico, o quella natura snaturata del dub che diventa industrial per alcuni aspetti, poi ambient, isolazionista, post rock e quant'altro. Quindi attraversamenti che si susseguono e creano anche delle forme di incrocio decisamente interessante, come quelle ad esempio anche assurdiste, volutamente folli, dei primi Black Dice, che andavano tanto a impattare con la forma dub. Anche qua un dub però portato agli estremi per eccesso di lo-fi, di tecnologia bassa e di possibilità date anche dalla tecnologia bassa, in questo senso forse anche più dub degli stessi maestri dub, cioè portare veramente l'essenza e il nocciolo dell'invenzione tecnologica a un grado zero, e quindi molto rumore, quindi una ritmicità che va a cercare sicuramente una saturazione del suono, anche qua tra un dub virato in maniera techno e un rumore che si dilata in maniera spaziale, se non fosse uno spazio assolutamente introverso, con schegge poi che impazziscono, in questo senso danno insomma il mondo piuttosto folle di Black Dice, soprattutto dei primi e stupendi Black Dice, formazione americana che insomma insieme a Sightings, Wolf Eyes, insomma ha aperto tutta la faccenda del nuovo noise. Thank you. E anche qua il dub è portato a livelli di una così forma abbastanza assurda, assurdista di arrangiamento complessivo di un pezzo che deraglia da tutte le parti tra appunto forme tecnoidi, tribaliste o primitiviste, insomma, rumorismo para rock che diventa insomma una sorta di possibilità in più nella così iter folle di un pezzo che perde pezzi, e proprio in questa maniera acquista questo fascino incredibile, questa anche linearità, una forma paradossale musicale di dub, traslazione da quell'attitudine che riesce insomma a compattare l'incompattabile. Questo forse è la grande capacità che ha un mixer, e ovviamente passato tra le mani, tra il gusto, tra la fantasia creativa appunto del compositore, e sottolineo compositore, che manipola il mixer, perché di composizione poi di sana pianta si tratta, visto che si parte da un pezzo, nel caso insomma dei primi esperimenti degli anni 70, e si arriva veramente a tutt'altro, oppure si parte da frammenti e da così frattaglie quasi sonore, e si ricostruisce una struttura, oppure si rimpolpa il tutto in una sorta di blob musicale che acquisisce insomma quel verso insomma piuttosto surreale, come in Black Dice. Così si potrebbe parlare per Black Dice di surreale barra dada, sempre insomma citando movimenti che forse non dovrebbero essere citati, visto che poi di fatto le cose si muovono e come, e la scienza dabbogica, dabbologica, lo sta a significare questa cosa anche. Una delle sicuramente caratteristiche, così appunto forzando un po' e riprendendo termini, appiccicandoli, anche quando appunto probabilmente non sarebbe il caso di fare, ma vabbè, tant'è che lo faremo lo stesso con Yawobble e Evan Parker. Forse andiamo a una forma di espressionismo dub con Parker tra il gioco e una forma di ricerca sonora che va a prendere dalla tradizione. Infatti sentirete, capirete anche perché si parla in questo caso di tradizione, una tradizione però che viene rivista, anche svilita per molti aspetti, se non fosse che insomma questo svilimento porta a grande senso a una composizione musicale decisamente, se non innovativa, decisamente originale. Evan Parker insieme a Yawobble è uno dei personaggi probabilmente più importanti degli ultimi 30 anni legati all'arte dabbistica. Già il nome Yawobble dice tutto, partito con Public Image Limited, tra l'altro non a caso citati all'inizio di trasmissione, attraversato buona parte della wave, poi dandosi a forme eclettroniche tra gli anni 90 e i primi 2000, e anche forme appunto di sperimentazione, sempre non abbandonando il suo amatissimo dub, in questo caso con uno storico come Evan Parker dell'improvvisazione radicale, uno insomma che è annoverato tra i grandi del post jazz e della appunto improvvisazione tutta del secondo dopoguerra. Sentite insomma che diavolerie esce tra questi due. Thank you. dub come possibilità di traslazione anche della tradizione musicale eletta in questo caso da Yao Wobble o già Wobble e Van Parker come viatico musicale per un pezzo decisamente astratto nella sua ricerca, insomma, di un qualcosa che è difficilmente definibile, appunto, partendo da il suono di una tradizione dubbistica e un suono che ricorda appunto un certo folk nord europeo, soprattutto insomma di terra inglese, arriva appunto a insomma, luoghi piuttosto inusitati musicalmente. Un album che vive proprio quello di Evan Parker e Ja Wobble, che ha qualche anno alle spalle, e proprio di queste incompatibilità, un disco appunto non ben definibile per quanto tale, appunto decisamente interessante come interesse, che soprattutto qua 451 garba parecchio quello appunto del tentativo di rielaborare materiale anche piuttosto scostante uno dall'altro, e insomma dentro questo Passage to Aid c'è come questo lavorio decisamente bello anche musicalmente, e non solo bello ma anche appunto con questa volontà insomma di andare a cercare situazioni musicali e sonore inedite. Io vi abbandono qua, vi rimando alla prossima settimana in compagnia di Elisio Scarpa, così insomma già ve lo dico, siete avvertiti. Scherzo chiaramente, saluto il mio compagno eterno, oramai compagno di viaggio qua 451 Frammenti Sonori. Ringrazio anche Lorenzo Albano, che non sentite in viva voce ma lavora e come a 451 Frammenti Sonori da 2 anni a questa parte, col blog di 451frammentisonori.noblogs.org, dove trovate più o meno tutte le trasmissioni, sempre che non vadano perse in qualche meandro strano della rete, ma comunque poi più o meno appunto trattandosi di rete la tiriamo sempre un po' su e appunto riusciamo anche a pescare anche bene. Speriamo che anche voi siate contenti insomma e non costretti ad una pesca insomma che si vorrebbe insomma sempre nuova e appunto dedicata a momenti insomma di innovazione, per quello che insomma può significare. Da ste parti significa piuttosto tanto. Io vi saluto, quindi Max Macchia vi rimanda alla prossima scorribanda di 451 Frammenti Sonori, e vi auguro insomma una buona settimana. Fate i bravi, insomma, no? Non volete fare i bravi? Vabbè, fate i cattivi, ciao.